Viziati pure infami, servi delle leggi capitali. Ho intrapreso la carriera partigiana. Ho intrapreso la carriera partigiana. Ho intrapreso la carriera partigiana. La carriera partigiana. Ho intrapreso la carriera partigiana. E buonasera a tutti e tutte. Questa sera io e il compagno Norberto vi presentiamo la quarta puntata dell'appuntamento dedicato all'antifascismo. La puntata di oggi verte sulla costruzione di comunità resistenti e di come questa cosa si declina perfettamente all'interno delle pratiche antifasciste. Le puntate precedenti vertevano sul controllo sociale, sulla questione anticapitalista e sulla cura e tutela dell'ambiente. Per chi vuole, ci sono i podcast già disponibili sia sul sito di ZAM www.zam-milano.it sia sul sito archive.it cercando Radio ZM. E con questo penso di aver presentato tutto. Do il benvenuto al mio compare Norberto. Buonasera a tutti e tutte. E gli lascio la parola, che ci dice qualcosa sulla puntata di oggi. Dunque, come giustamente diceva Gigi, il mio compagno Gigi prima, la puntata di oggi verterà sulle comunità resistenti e sulla loro costruzione. In realtà un argomento che qui, quantomeno qui a Milano Sud, ma direi molte altre parti d'Italia, e dopo lo vedremo, non è nuovo. Anche perché, soprattutto in seguito alla pandemia, sono aumentati tutti quei meccanismi di mutuo aiuto, di solidarietà, che comunque già prima esistevano e entravano a far parte di tutto quell'universo di pratiche, di modalità e di parole d'ordine che miravano alla costruzione di comunità resistenti, che fossero oltre che resistenti e quindi resistessero alla società basata sullo sfruttamento, al neoliberismo, in generale all'assetto vigente capitalista, fossero anche persistenti, quindi in grado di adattarsi alle situazioni contingenti, all'ambiente circostante e a ciò che avveniva intorno, e avessero comunque un'impronta comunque sempre antifascista, antirazzista, antisessista e anticapitalista. Ma la costruzione di comunità resistenti ovviamente è sempre in divenire, perché le comunità cambiano, i linguaggi cambiano, i rapporti tra le persone cambiano, quindi in realtà la costruzione di comunità resistenti si inserisce nel programma politico di più ampio respiro, il cui afflato è un po' rigenerare tutti i rapporti sociali per renderli liberi da sopraffazioni, da violenze, da soverchierie, da gerarchie, da sfruttamento, e rifondare l'idea di relazione, di rapporto, di rete sociale che vada a informarsi ai valori un po' di parità, di sensibilità e di inclusività, ecco. La costruzione di comunità resistenti e quindi tutto ciò che si portano dietro come portato politico e umano vanno quindi a delinearsi come il migliore antidoto, il migliore e forse anche l'unico antidoto al capitalismo e a tutto ciò che ci viene imposto da esso, sia nella vita privata che nella vita diciamo più sociale, quindi l'abilismo, il cannibalismo verso il proprio simile, e cosa ancora più paradossale ma profonda e importante, l'atomizzazione assoluta dell'individuo, perché in un mondo il paradosso di questo processo è che in un mondo che ci vede sempre più interconnessi, si vedono per esempio il fiorire di social network, di possibilità di incontrarsi anche virtualmente in pochi secondi da una parte all'altra del mondo, in realtà la solitudine caratterizza l'oggi, l'odierno, e la solitudine, la depressione, l'individualismo sono solo sintomi di questa vita che sembra apparentemente libera, sembriamo apparentemente liberi di scegliere questa modalità di relazione sociale qui, ma nella realtà è l'assetto vigente del capitalismo che un po' ci obbliga, pena l'esclusione sociale. Quindi è un po' questo di cui vorremmo parlare oggi. Avremo diverse esperienze, diverse testimonianze, contatteremo una compagna di Azione Antifascista Roma Est, una collettività che nella zona di Centocelle, appunto, di Roma, agisce quotidianamente per costruire comunità resistenti nella peculiarità del territorio. L'abbiamo vista per esempio declinare il motto che un po' ci ha contraddistinto anche nelle nostre uscite pubbliche, combatti la paura, distruggi il fascismo, declinarlo nelle varie sfaccettature che poteva assumere, quando per esempio è stata bruciata la libreria La Pecora Elettrica, che avevano, diciamo, coniato il motto combatti la paura, difendi il quartiere, eccetera eccetera. Poi contatteremo anche un altro compagno da Napoli, che ci parlerà un po', ci parlerà anche dell'evento del carnevale che hanno fatto a Scampia col comitato per l'abbattimento delle vele eccetera, però in generale da questo evento specifico poi ci narrerà un po' come si costruiscono comunità resistenti, molto interessante perché in un territorio difficile come Napoli, ovviamente noi tutti agiamo in territori difficili, anche le periferie milanesi sono piene di contraddizioni, però in un territorio particolarmente difficile, sventrato, su cui tantissime hanno lucrato come Napoli, costruire comunità resistenti va a profilarsi come una pratica vitale, non solo importante ma assolutamente vitale e imprescindibile, per poi appunto concludere invece con un altro compagno di Milano Sud, però di una realtà sociale diversa dalla nostra, che ci narrerà un po' invece come anche nello stesso territorio possono esserci diverse sfaccettature della stessa pratica, della stessa modalità, con gli stessi fini. E niente, allora ringraziamo Norberto e mandiamo una canzone prima di ascoltare il contributo di Massimiliano, compagno di Zame della Brigata Popolare di Milano Sud, di Solidarietà Popolare di Milano Sud. Ci ascoltiamo Quale del Fomento con Penso Diverso e poi torniamo. Stai dove ti dicono di stare e ti ripeti che era quello che volevi, e mi giuri che alla fine è normale anche andare contro a quello in cui credevi, e mi dici che ogni gioco ha la sua regola, che sono io che vivo male mentre il mondo intorno si sgretola, tu chiudi la tua porta e spegni il segnale, è un confine sottile che è dentro e dentro, che è fuori un bersaglio, mentre sogno un fucile da puntare su ogni singolo errore, ogni singolo sbaglio, e mi parli di chi sale, di chi scende, di chi vince e di chi perde, quasi mi convinci che contano soltanto i primi, gli altri non valgono niente, ma io penso diverso, ostinato e contrario, resto avverso al tuo pensiero perverso che mette tutti su un unico binario, tu che pensi che l'amore si vede dalle cicatrici, poi mi parli di radici e mi dici che l'onore si misura dai nemici, tu che coi deboli alzi la cresta, poi coi forti abbassi la testa e obbedisci da bravo soldato, un spirro dentro assunto assoldato, ma io penso diverso, in un'altra direzione, vado solo verso il basso, perché è lì che trovo il sole. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco,

lavoro di mutuo aiuto, perché ovviamente nel contesto pandemico era una delle risposte materiali che le persone delle comunità hanno cercato di iniziare, di intraprendere per supportare materialmente alcune delle esigenze che questa crisi pandemica ha creato. Il contesto, ovviamente, la riflessione che si fa, che abbiamo fatto collettivamente, è quella di cercare di capire come il processo comunitario, quella che si può anche definire come tensione comunitaria all'interno della crisi pandemica, deve trovare sempre un modo per sostenere la comunità stessa. Quindi, avviando questo progetto di solidarietà, siamo riusciti in una qualche forma, ancora adesso è attivo, per cui ancora adesso prosegue, pur essendo mutate rispetto all'inizio alcune delle condizioni. Quello che facciamo è quello che abbiamo deciso di fare collettivamente, è un supporto materiale dal punto di vista dei bisogni. Questo come si ascrive nel processo comunitario? Beh, sicuramente è un tracciante, se così lo possiamo chiamare, rispetto al recepire quali sono i bisogni della comunità. Causa coronavirus, i bisogni della comunità sono diventati, lo erano già prima, ma sicuramente si è accentuato il bisogno materiale di alcuni beni di prima necessità, ma anche quello che poi a noi interessa di più, che è più pertinente alla discussione di stasera, la necessità di raggiungere le persone per poter condividere con loro questa tensione comunitaria, intesa come il non, visto che Norberto lo citava prima, il contrastare l'atomizzazione dell'individuo all'interno insomma di tutto il comparto sociale. Questo in prima istanza su un piano di supporto materiale, ma sicuramente in una ipotetica fase 2 è quella di colmare questo vuoto tra i soggetti, tra gli individui, per far sì che la tensione comunitaria viva e possa produrre quei necessari anticorpi per contrastare tutto ciò che riguarda e tutto ciò che provoca soprattutto l'atomizzazione dei soggetti, quindi l'esclusione, la paura, e qui ci leghiamo al claim che spesso usiamo, che è quello combatti la paura, distruggi il fascismo. Ecco, la crisi, oltre che economica, sanitaria e anche esistenziale, fa sì che gli individui accolgano molto più facilmente la paura, e questo è un processo che già prima stava avvenendo, legato ai media, legato alla politica di destra nel nostro paese, eccetera, però fa sì che l'individuo accolga questa paura, e l'accolga ovviamente nella sua forma più reazionaria, quindi il reagire rispetto con un'immediatezza drammatica rispetto a tutte le differenze, rispetto a tutto ciò che compone una comunità. Per cui il contrasto e il nostro lavoro in termini comunitari è quello di colmare questo gap e far sì che le persone si sentano parte di una comunità che è solidale, deve essere solidale, perché altrimenti non può neanche essere, cioè può essere definita una comunità, ma è una comunità non solidale, una comunità chiusa che non si federa con le altre comunità e non parla e non ha l'ampiezza necessaria e soprattutto l'attitudine necessaria per dichiararsi una comunità resistente. Per cui questo è quello che un po' il lavoro di mutuo aiuto ha iniziato e sta iniziando adesso a mettere un po' le basi. Sicuramente in chiusura di puntata Mattia, uno degli altri ospiti, avrà una panoramica più chiara, anche soprattutto rispetto a il riuscire a condividere con le persone beneficiarie del progetto quello che ha un piano politico un pochino più ampio e vivido dal punto di vista della partecipazione. E quindi questo è sicuramente un metodo per riuscire a costruire quella che è un'altra grande parte della nostra discussione, cioè la questione dell'antifascismo sociale. L'antifascismo sociale, per come lo abbiamo discusso, per come lo stiamo immaginando e per come ancora stiamo cercando di teorizzare, poi materialmente praticare nei territori, è un qualcosa che non rinnega tutto ciò che riguarda l'antifascismo rispetto a i termini più canonici che abbiamo sempre portato avanti, le pratiche che abbiamo sempre portato avanti, ma amplia in una forma abbastanza ampia, a 360 gradi, quello che è lo spettro d'azione rispetto al trasformare la comunità in una comunità antifascista, perché tutto ciò che la lente con cui osserviamo e con cui modifichiamo i processi che avvengono all'interno della nostra comunità è una lente che, se possiamo raccogliere il termine, prendere in prestito il termine dal femminismo, ha comunque sempre una visione intersezionale. E l'intersezionalità è un concetto molto prezioso, perché fa sì che il modo in cui si osservano i comportamenti, i mutamenti, il modo in cui si osservano e soprattutto in cui si praticano le lotte, vivono di una presa in carico, di una consapevolezza a 360 gradi di tutti quelli che sono i fattori che determinano la condizione sociale, che determinano l'esclusione, eccetera. Questo può essere fatto e deve essere fatto anche in chiave antifascista, perché la modalità con cui sviluppiamo la nostra contaminazione antifascista all'interno della comunità non può essere letta solo ed esclusivamente in opposizione alle strutture organizzate fasciste, che oggi sono in uno stato, io non credo di eccessiva difficoltà, ma sicuramente sono in una fase di mutazione, cioè preferiscono e prediligono rispetto al percorrere le strade dei quartieri, preferiscono costruire un meccanismo elettorale, un meccanismo partitico per posizionarsi in luoghi di potere in cui poi poter portare le loro istanze. Per cui non possiamo solo ed esclusivamente limitarci a quello, abbiamo la necessità di vivere questo antifascismo sociale nella sua più ampia visione, e di conseguenza questo è un po' quello che stiamo riuscendo a fare con i meccanismi di mutuo aiuto, perché appunto, e concludo, il tracciante che ci permette di arrivare alle persone è sicuramente il bisogno materiale, ma quello che poi tracciamo e riusciamo a riconoscere siamo noi a modificarlo e soprattutto a contaminarlo con il nostro con tutto il nostro paradigma di antifascismo sociale e tutta la sua materialità conseguente. Beh, grazie Macio, un contributo importante. Adesso noi vi lasciamo con una canzone molto significativa, Lo straniero dei Sangue Misto, e ci rivediamo tra poco con chiamate a dei compagni in giro per l'Italia. Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero in sclero, teso vero, vesto scuro, picchio la mia testa contro il muro. Sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti, e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola. La NE, la WFA, passa parola, Cico canta che ti passa, ma non mi passa più. Testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia. Per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia. Io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no. No, no, no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. No, no, no. E la mia posizione è di straniero nella mia nazione. No, no, no. E la mia posizione. Non parlate allo straniero e lo guardate male, e ogni singolo

questo film, maestro? Come finisce? Non c'è Dio che ci perdoni. No, bro. Non c'è io, non c'è padroni. No, no. Venuti su con l'odio per loro signori, per i troni. Col mito di Lenin, non di Tony. Contro lo Stato, gli sbirri, l'esercito, la NATO con i droni. Merde. Vediamo rosso come i tori. Abbiamo altri eroi, lavoratori. Non quelli coi soldi, fra come Batman e Robin. Il mondo bomba, il po' di merda e sono tutti tristi. Non i comunisti. Vediamo lungo, c'è il sole sotto ste crisi. Ma il mondo non cambia se stai lì fermo e lo fissi. Se anche tu pensi che non va niente bene, fra loro e dati da fare, c'è chi muore di fame, c'è chi perde il lavoro, c'è la guerra nucleare, ma niente conta per loro, fra conta soltanto l'oro e quello nuovo che puoi fargli fare. I comunisti sanno come fare, sanno come fare, sanno cosa fare. Ancora fischia il vento, ordine e marciare, dobbiamo cambiare l'ordine sociale. I comunisti sanno come fare. I comunisti, borghesi hanno ancora il terrore dall'ultima volta che li hanno visti in testa alla rivolta. Okay. E se perdiamo risorgiamo ogni volta come Cristi dalla grotta. Okay. C'è la crisi, fonda che non si tocca. E tu perdi il lavoro, la paga, la casa, paga solo la lotta. Il capitalismo è una porta che si apre solo per chi importa e si regge su chi sopporta. C'è chi succhia dalla mammella, chi lavora dalle 8 alle 8 sempre sbattella. Che entra in banca non ha il conto, conta su una rivoltella. I comunisti, comunisti, finché non cambia tutto sta merda. Hey. E lo so che abbiamo provato e perso. Vabbè. Ma riproviamoci adesso. Sì, e se sì. Dici la fai facile è un po' più complesso. Allora quando parlo non mi stai appresso, perché ho detto bro. I comunisti sanno come fare, sanno come fare, sanno cosa fare. Ancora fischia il vento, ordine e marciare. Dobbiamo cambiare l'ordine sociale. I comunisti sanno come fare. Tu che fai fra sfrutti o sei sfruttato? Se lavori salariato questa roba fa per te. Se sei disoccupato sai che fa per te. Se vivi nei quartieri lo senti che fa per te. La risposta è tu e perché. Tipo perché io mi faccio il culo ed il mio boss si compra uova a Fabergé. La risposta è semplice. Niente formule magiche. Anche le galline fanno le uova ma le mangi te. Ci hanno chiuso in un pollaio, riempiono il salvadanaio. I comunisti fanno riot. Per ste catene hanno le chiavi come Pietro. E il guaio non è Renzi né Di Maio, ma chi ci sta dietro? C'è un partito senza voti che comanda con i soldi. Un governo senza volti, qui tutti danno ascolto. E se vuoi porti da solo non duri molto. Ma non sei mai solo, fra, se vuoi cambiare il mondo. E non sei solo se vuoi cambiare il mondo, fra, come dice Buonteia. Speriamo, speriamo di non essere soli a cambiare il mondo. Siamo, non lo siamo, non lo siamo. Bene, continuiamo compagno, andiamo avanti. Adesso stiamo chiamando una compagna di Azione Antifascista Roma Est, Marianna, che ci racconterà un po' nel loro quartiere come costruiscono comunità resistenti. Vediamo se risponde. Pronto? Ciao Marianna. Benvenuta. Ciao. Sei su Radio Ciao. ZM. Wow. Come va? Bene, bene. Voi? Bene, bene, grazie. Oggi siamo qui a parlare un po' di comunità resistenti, perché devi sapere che questa è la quarta puntata di 8 che si iscrive nel ricordo di Dax, no? E quindi abbiamo fatto le precedenti 3 puntate sulla tutela e la cura del territorio, sulla pratica anticapitalista, e l'altra sul controllo attraverso dei dispositivi tecnologici, quindi il controllo diciamo sul web. Oggi invece per la quarta puntata, in occasione della quarta puntata, parliamo un po' della declinazione della costruzione di comunità resistenti per l'antifascismo. Infatti, passando un po' a quello che volevo chiederti, durante la pandemia da coronavirus, durante l'epoca pandemica che stiamo vivendo, abbiamo visto il fiorire, l'aumentare di meccanismi di mutuo aiuto. In realtà questo poi nei nostri quartieri, noi che siano strutture organizzate o no, lo portiamo avanti da anni. Cioè la risposta ai bisogni e l'organizzazione del bisogno in realtà è una pratica che noi portiamo avanti da anni, col fine ma anche con il mezzo di costruire comunità resistenti, che sono una serie di pratiche che mirano alla costruzione di rapporti sociali diversi, scevri da sfruttamento, inclusivi, paritari. Quindi nella nostra esperienza un po' le comunità la costruzione di comunità resistenti e persistenti, antifasciste, antirazziste, anticapitaliste e antisessiste, sono l'antidoto alle prepotenze, in generale a tutto quell'universo di pratiche e idee che è quello del neofascismo. Diciamo, consapevoli che quindi la costruzione di comunità resistenti può iscriversi nei processi di cambiamento sociale che sono anche che si muovono in opposizione all'automizzazione dell'individuo, che invece il capitalismo ha come caratteristica essenziale e vitale. Secondo te, date queste premesse, come la costruzione di comunità resistenti è una pratica nelle modalità e nel fine prettamente antifascista? Raccontaci un po' della realtà romana, della specificità romana, di quello che fate, di come secondo voi questa è una pratica antifascista. Ok, allora faccio una breve premessa sul nostro gruppo e sulla sua genesi, così magari si capisce un po' meglio il contesto in cui operiamo. E poi arrivo subito al dunque. Allora, Azione Antifascista Romas nasce all'inizio del 2018, durante l'ultima grande campagna elettorale, quando, come al solito in tutte le occasioni di campagna elettorale, vari compagni di vari quartieri del quadrante est della città si sono organizzati per contrastare la propaganda neofascista sui muri e per le strade dei nostri quartieri. Ora, questa dimensione organizzativa si è sempre data a Roma Est in periodi elettorali, anche perché appunto sapete qual è la forza delle organizzazioni neofasciste nella nostra città. Però ecco, è sempre rimasto un piano emergenziale che, finite le elezioni, si disperdeva. Nel 2018 però ci siamo accorti che sul piano dell'antifascismo c'era bisogno di fare un lavoro un po' diverso dal solito, avendo capito che l'opzione fascista aveva una diversa e ben più radicale presa sui nostri territori, per cui abbiamo pensato che fosse necessario comprendere meglio il fenomeno del fascismo contemporaneo e le forme in cui si esplica, e anche un po' ripensare l'antifascismo e le sue pratiche per renderle all'altezza dei tempi che viviamo, ecco. E in questo ragionamento, che poi abbiamo condiviso con altre realtà di altre città italiane nel percorso di Aurora, che conoscete bene, rientra sicuramente questa ipotesi di antifascismo sociale. Cioè, abbiamo pensato che ci fosse la necessità un po' di riterritorializzare la questione antifascista a partire da un atteggiamento meno ideologico e più osmotico, che partisse da bisogni del territorio, nel tentativo proprio di costruire una comunità resistente che abitasse il nostro di territorio. E in questo senso, per noi, costruire una comunità resistente è una pratica di antifascismo sociale, nel senso che è uno strumento per combattere la paura e per distruggere il fascismo. Cioè, per combattere la paura, perché, come dicevi tu nell'introduzione, bisogna vincere quella solitudine, quella condizione di isolamento e automizzazione che si vive sui territori, rispondendo ad un bisogno di appartenenza e di condivisione dei bisogni, ma anche dei modi per soddisfarli insieme. E distruggere il fascismo abitando con relazioni solidali di mutuo appoggio i territori, per colmare quei vuoti in cui spesso sono abbandonate le istanze sociali di chi vive il territorio, e colmare quei vuoti che sono pericolosi, perché se non sono organizzati tendono a essere reazionari e spesso ad essere colmati dal nemico, e noi a Roma lo sappiamo molto bene. Per cui il tentativo nostro di costruire una comunità resistente a Roma Est nasce da un'emergenza, cioè che ha coinvolto il quartiere di Centocelle, in particolare più o meno a novembre del 2019. Centocelle, per capire, è uno storico quartiere popolare che però è soggetto ad un violentissimo processo di gentrificazione, che proprio a novembre del 2019 è stato colpito nel giro di pochissimi giorni da quattro attentati incendiari a danno di piccoli locali, piccole attività commerciali della zona, un po' espressione di quel misto di poteri legali e illegali che hanno un chiaro intento speculativo sul nostro quartiere. E proprio nell'ottica di colmare questi vuoti a cui sono abbandonate le stanze sociali, abbiamo deciso insieme ad altre realtà organizzate del quartiere di metterci un po' in ascolto e in sintonia con gli altri abitanti del quartiere e con quella che era un po' la comune percezione di paura che si viveva in quei giorni in quartiere e quel bisogno evidente di sicurezza che si avvertiva. E proprio rispetto al discorso che si faceva, no, sulle contraddizioni, siamo stati un po' costretti a scendere dal nostro piedistallo e capire che non potevamo ignorare quel bisogno di sicurezza, catalogandolo ancora una volta come un'istanza reazionaria, no, quella dell'estrema destra, perché se l'avessimo fatto sicuramente un discorso securitario avrebbe preso un po' il sopravvento, anche perché siamo consapevoli dei sentimenti e delle pulsioni securitarie da cui il nostro territorio comunque non è immune. E quindi un po' per evitare di lasciare un vuoto che avrebbero sicuramente riempito fascisti e polizia, magari ronde antispacciatori, caccia al migrante, militarizzazione, controllo, telecamere, abbiamo convocato delle passeggiate di autodifesa del quartiere con lo slogan, come raccontavi, combatti la paura, difendi il quartiere. Queste passeggiate sono state attraversate, a nostra sorpresa anche, da migliaia di abitanti che hanno saputo esprimere un'idea di sicurezza molto distante da quella securitaria, esprimendosi contro la militarizzazione del quartiere e sostenendo che la sicurezza del quartiere dovesse essere fatta dagli abitanti che lo vivono e che lo attraversano. E quindi da questa emergenza è nata l'esperienza della Libera Assemblea di Centocelle, che è un'assemblea di quartiere tuttora in vita, in cui partecipano abitanti, lavoratori, militanti, ristoratori, genitori del quartiere, e un po' a partire da questo concetto di autodifesa si è deciso di organizzarsi insieme per poter decidere sul territorio, sulle proprie vite, a partire da bisogni e esigenze comuni, quindi un po' di autodeterminarsi. E sempre in quest'ottica, come Libera Assemblea, abbiamo deciso poi di affrontare l'altra grande emergenza che è piombata nelle nostre vite, ovvero quella della pandemia. Per cui a marzo scorso, dalla Libera Assemblea è nato il gruppo di appoggio mutuo, che ha deciso di praticare il mutualismo per rispondere ai bisogni degli abitanti del quartiere imposti dall'emergenza sanitaria. Così, dopo un appello pubblico circolato nei quartieri di Centocelle, ma anche Villa Gordiani e Torpignattara, che sono sempre nel quadrante est, appello a cui hanno aderito oltre 250 abitanti disposti a fare i volontari in varie forme, condividendo i loro saperi, abbiamo costruito un'organizzazione che via via si è articolata in vari sottogruppi e attività e che si occupa di rispondere alle varie esigenze che sono sorte da questa emergenza, per cui spese solidali gratuite, la consegna a domicilio di spese e di medicinali, distribuzioni gratuite di vestiti ma anche di libri per bambini. È stato creato uno sportello psicologico di sostegno a chi vive le condizioni di precarietà esistenziale che poi si sono aggravate nella pandemia, uno sportello legale che in fase di lockdown si è occupato soprattutto di difendere gli abitanti dagli abusi della polizia per le restrizioni alla circolazione, ma anche di sostenere i lavoratori del quartiere che venivano costretti a lavorare in condizioni del tutto inadeguate rispetto alla sicurezza e anticontagio. E poi c'è un gruppo di autoproduzioni che produce mascherine, gel disinfettanti, saponi e altri beni di prima necessità, un gruppo che si occupa di raccogliere i beni per le distribuzioni alimentari e che collabora anche con piccoli produttori e filiere produttive etiche, e un gruppo che si occupa poi della comunicazione di queste attività e ultimamente, a partire da un ragionamento sulla cura del sé e della comunità, e anche da una forte critica a come viene gestita la sanità pubblica, che è stata dirompente soprattutto in questa fase emergenziale, stiamo provando a mettere in piedi un ambulatorio popolare di quartiere per assicurare a tutti gratuitamente, anche ripensando un po' il rapporto canonico tra medico e paziente, delle visite mediche specialistiche, la distribuzione e la somministrazione di gratuita di farmaci. E tutto questo proviamo a farlo appunto per abitare il quartiere in maniera solidale e mutualistica, condividendo saperi, ma soprattutto anche cercando di uscire dall'ottica assistenziale e coinvolgendo anche chi usufruisce di queste attività in un processo organizzativo, proprio per rendere possibili le attività stesse. E tutto questo per noi, un po' come diceva anche Massimiliano prima, è antifascismo, cioè è una forma di antifascismo sociale, perché appunto oggi non si tratta più solo di lottare contro i fascisti e le loro organizzazioni, di contestare i loro comizi o rispondere alle loro aggressioni, ma si tratta anche di ricostruire territori attraverso esperienze di condivisione che sappiano tessere legami solidali e di mutuo appoggio, creare una forma di vita che sia in grado di sostanzialmente restituire la tentazione fascista a ciò che è, cioè una terribile illusione. Molto bene, grazie mille Arianna, un esempio virtuosissimo, quindi, di organizzazione del bisogno e di sottrazione del vuoto politico umano che altrimenti verrebbe sussunto dalle organizzazioni, dalle idee, dalle pratiche fasciste, quindi una pratica assolutamente in tutto e per tutto antifascista. E noi ringraziamo Compagna di Roma per il suo contributo e adesso mandiamo una canzone e poi ci rivediamo dopo con un intervento di un compagno da Napoli. Grazie mille Marianna. Grazie mille, a presto. Ciao. Un abbraccio, ciao. E mi sembra che questi Norbi capitano proprio perfetti, no? Dopo un intervento di Marianna, no? Stavo pensando esattamente la stessa identica cosa, direi a fagiolo. Hai visto? Allora, questi sono Rap Caverna Posse, Aurora. Indomabili ribelli come Gino Gatti, compatti avanti sulle orme dei giganti, pochi santi. L'amore ha vari aspetti, però l'odio altrettanti. Lo riservo per chi sfrutta l'uomo, non per i briganti. Quelli come noi non ti sorridono, facci caso. Denti stretti come pugni sul tuo naso. Restiamo compatti come pezzi di un puzzle, per un disegno più grande, senza aspettare il caso. Che homo faber fortune, però anche omini lupus. Oggigiorno la violenza ha assunto un tono più cupo. Nuova guerra tra gli oppressi come i tuzzi con gli Utu. Sarà guerra tra le classi, sarà tutto perduto. Io non sono fatalista e non mi fermo alla memoria. La mia scelta è più complessa di sconfitta o vittoria. È un processo che altalena tra dottore e boia. Radici secolari come una sequoia. Aurora dice antifa sottoscrivo. Non esiste fascismo costruttivo. Mi sudra per armati, fac privilegiati. Offrire prospettiva a un luogo che ne è privo. Aurora contro buio, pesti in posti desolati. In mezzo a gente sola, ragazzi rassegnati. Si sfrutta la paura, non si comprende la rabbia. Si nasconde la tristezza, la gioia di chi sta in gabbia. Cresciuti con la crisi sullo sfondo, dove tutto ha un costo. Contro chi ci vuole a fondo, stiamo al nostro posto. Lottiamo, noi non siamo uguali, patti chiari. Proporre alternativa, Aurora dice partigiani. Mettiamo le radici nelle crepe di sto mondo infame. La necessità da forza, gusto di chi ha fame. Questo mondo non è l'unico possibile. Dirla tutta non è manco il più appetibile. G. siamo usciti dall'inferno per rivedere le stelle, ma c'è chi è uscito dalla fogna solo per rivedere le sberle. In un'invasione di ratti l'ignoranza è l'unica peste, se la scuola non gli è bastata c'è chi li concerà per le feste. Cambino veste, chiamino un teste del vuoto dentro le loro teste, chi parla violenza non sente niente, io non ho tempo da perdere, la memoria costante ricostruzione del passato in vista del bisogno presente. Viene da chiedersi in che mani l'abbiamo lasciata, dove il sangue di vittime e carnefici insieme si lava, dove può sputare sentenze chi ha la bocca alla baba, dove arrestano quattro studenti che mandano sei fascisti a casa. Anni a dividerci noi, meno puri più duri, tra di noi non si fanno differenze, parlano anche i muri, perché ciò che vedono non siano più solo soprusi. Vuoi combattere la paura? Prima fissala ad occhi chiusi. Dal tuo campo di battaglia cambio direzione, la mia guerra è un'altra, un canto disertore. Cambia fazione, chi comanda un cambio imperatore. Seppelliscimi in montagna, campo imperatore. In braccio il Mickey, in spalla canta mille storie. La musica non cambia, cambia le persone. Abbraccio chi mi parla, cambia l'intenzione di chi campa di terrore, vuole dirti come. Keep it knowledge, aspettare stanca, vivi le ore. Feel this moment, se la notte ti sovrasta, spingi il nome. Contro chi ha rinchiuso l'alba dentro un sì signore. Vincono sempre i buoni, Italo Paolucci. Non importa quando parli, contano i gesti. Caratteri clandestini per i cluci. Ho in mano un testimone di staffette che non fermi. E questi erano i nostri carissimi amici Rap Caverna Post, che salutiamo e ringraziamo. Grandi Rap Caverna Post, grandi, sempre, sempre avuto un sacco di scratch bene. Di DJ Feng alla fine, bellissimo. Che per chi vuole c'è anche un video, perché tra l'altro è l'unico video di Rap Caverna Post che si può vedere su YouTube, se volete. Anche perché qualcuno potrebbe non credere all'esistenza di Feng, visto che potrebbe non averlo mai visto, è molto facile. È mascherato nel video, cioè la maschera antigas, perché c'era il Covid nella bomba, quindi non lo vedrete in face. Perfetto. Dopo l'esempio, dopo la testimonianza della compagna di Roma, adesso chiamiamo Antonio, un compagno di Napoli, che ci narrerà un po' della costruzione di comunità resistenti nel territorio di Scampia. Pronto? Ciao Orso. Ciao Norbi. Sei su Radio ZM. Benvenuto, grazie. Grazie, grazie. Come va? Bene, bene. In questo momento non sono, diciamo, nella mia città. Vi parlo, diciamo, da terrazzo dell'ospedale di Brindisi, però... Ah, bene. ho capito. Beh, comunque non ti sei scordato del tuo territorio, puoi parlarci della tua comunità. No. Ok. Devi sapere che questa è la quarta puntata che stiamo facendo su 8, che si iscrivono nella memoria, nel ricordo di Davide Cesare ucciso dai fascisti nel 2003 qua a Milano. E le precedenti puntate hanno raccontato un po' della sorveglianza sul web, quindi del controllo tecnologico. Poi abbiamo parlato di come l'antifascismo si lega alla cura, alla cura e alla tutela del territorio. E l'altra volta, il 23, abbiamo parlato invece di come l'antifascismo si leghi indissolubilmente all'anticapitalismo. Oggi invece parleremo un po' di comunità resistenti. Quindi, per passare subito un po' alla domanda che interessa direttamente te, l'epoca pandemica che stiamo vivendo ha visto il moltiplicarsi di meccanismi di mutuo aiuto e di solidarietà auto-organizzata dal basso. In realtà questo i compagni e le compagne in giro per l'Italia è una pratica che hanno messo in campo da anni con la costruzione di comunità resistenti, che potremmo definire come una serie di modalità, di pratiche che mirano alla costruzione di una rete di rapporti sociali che sia libera da sfruttamento, da oppressioni, che invece sia informata ai principi di uguaglianza, di parità e di inclusività. Quindi, secondo te, con anche il racconto di un po' di quello che succede nel territorio che vivi, a Scampia, a Napoli, come la costruzione di comunità resistenti possa essere, si può definire una pratica antifascista? Come mai? Beh, poi mi riallaccio un po', diciamo, anche ai discorsi che sono già stati fatti, diciamo, in precedenza. anche se ovviamente diciamo cioè, il territorio nostro per ovvie ragioni diciamo sicuramente cioè, presenta sicuramente delle diversità rispetto agli altri che prima di me si sono espressi. La costruzione, cioè in realtà fatto all'inizio, quindi cioè come in qualche modo il capitalismo negli ultimi diciamo decenni sia riuscito a dividere, cioè ad atomizzare diciamo l'uomo, a rinchiuderlo diciamo sempre di più nella sua arte ed individuale. Questo è un terreno secondo me, secondo noi, molto fertile per diciamo strutture e in qualche modo visioni cioè, di gestione del territorio molto autoritarie come quelle che possono essere le gestioni diciamo fasciste. Quindi la possibilità, cioè darsi la possibilità invece di abitare il territorio diciamo rompendo con questa diciamo forma di vita, questa modalità di attraversare molto diciamo atomizzate i territori, invece diciamo provando a dispiegare delle pratiche che siano in qualche modo solidali e che rompano con tutti i meccanismi di gerarchia e maschilismo che in qualche modo diciamo questa società si porta dietro. E questo può essere diciamo sicuramente una forma diciamo di presidio di resistenza all'interno diciamo delle territorialità, cioè dei territori. E a Scampia diciamo questa cosa ha cioè nel senso è iniziata parecchio tempo fa in risposta forse diciamo a quella forma di gestione autoritaria del territorio più legata però ad ambienti diciamo criminali, e quindi nel lontano 83 fu occupato diciamo quello che poi tutti conoscono adesso come il Gridas, e che diciamo negli anni ha attraversato il territorio soprattutto portando avanti questa pratica diciamo del carnevale sociale. Noi, nel senso negli anni, soprattutto diciamo, io mi sono avvicinato ad una certa, cioè ad una parte di questi compagni e compagne negli ultimi 2-3 anni, abbiamo in qualche modo cercato di continuare a percorrere diciamo quella strada, provando a portare anche delle novità, e però sostanzialmente quella che in qualche modo si è formata negli anni, diciamo, cioè questa rete territoriale di Scampia è un qualcosa che diciamo da svariati anni prova a rispondere a quelle che sono diciamo le gestioni appunto diciamo criminali e o in qualche modo cioè partitiche, che però spesso trovano diciamo delle coincidenze tra loro. E con la pandemia, cioè con l'arrivo della pandemia, anche qui abbiamo provato diciamo a rispondere ai bisogni diciamo territoriali che in qualche modo sono stati diciamo forti, anche perché sul nostro territorio si presenta uno dei campi rom più grandi diciamo dell'area metropolitana di Napoli. Quindi l'esigenza diciamo del cibo si è rivelata da subito un qualcosa di fondamentale. Questo però diciamo a parte poi riuscire a sostenere diciamo per 2 mesi centinaia di famiglie, cioè ci ha in qualche modo fatto, cioè ci ha messo di fronte al fatto che siamo riusciti un po' a rompere diciamo quelli che erano gli argini di una micro comunità diciamo di militanti, e quindi ci ha dato la possibilità di parlare diciamo e di riuscire a vivere assieme diciamo, molti più momenti e attraversare insieme, diciamo, degli spazi del quartiere con persone che prima non si erano mai avvicinate, diciamo, a tutto spazio occupato che in qualche modo è occupato dall'83. E quindi è stata, diciamo, sicuramente un qualcosa che ci ha messo di fronte, cioè ci ha fatto riflettere su quanto, diciamo, può essere importante in qualche modo superare quelle incrostazioni, diciamo, a volte ideologiche che ci isolano un po', diciamo, dalla collettività che abita comunque i nostri territori. E quest'anno, diciamo, come accennavi tu all'inizio, cioè una cosa che in qualche modo abbiamo voluto comunque mantenere, anche se in forme, diciamo, molto più contenute, proprio, diciamo, in rispetto, diciamo, delle normative adesso di contrasto alla pandemia, è stato comunque il carnevale che c'è. Si è affermato, cioè, nel senso, questo doveva essere il 39esimo anno, quindi è comunque, diciamo, un evento diventato quasi una ritualità, una tradizione, diciamo, per questo territorio. E noi, diciamo, in particolare, come, cioè, insieme alla Murga e al collettivo, diciamo, Laboratorio Politico Magma, che abita il Gridas, come squadra di calcio popolare abbiamo cercato proprio di esprimere, diciamo, attraverso la pratica del tarro e con un murale, quelle che sono, diciamo, le due idee di mondo che in qualche modo vediamo come nemiche: quella, diciamo, egemone che attualmente, appunto, cioè, atomizza, diffonde, diciamo, paura, che è quella del, diciamo, del capitalismo, e l'altra invece quella che in qualche modo proviamo con forza ma con tenacia ad esprimere quotidianamente sui nostri territori, che invece quella visione, diciamo, di mutuo appoggio, di solidarietà, di cura reciproca e di cura, diciamo, anche del territorio. E, diciamo, è andato abbastanza bene, però ovviamente i numeri sono stati ovviamente molto ridotti, però certo, guarda, una testimonianza importante. Noi ti ringraziamo e grazie a voi, e sperando niente. Cioè, sperando di poterci vedere presto. Sperando di poterci vedere presto, esatto. Di venirvi a trovare giù. Quando volete, le porte di Scampia sono sempre aperte. Non vediamo l'ora. Perfetto. Grazie mille, grazie Orso. Antonio. Ci sentiamo. Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, grazie. E niente, io direi di mettere una canzoncina e poi fare due chiacchiere con il nostro amico e compagno Mattia. Il buon Mattia. Che dici? Sono d'accordissimo. Guarda, dai. Io pensavo che per buttarci sul suono di Grato Soglio potevamo mettere uno degli ultimi pezzi di Izzy. Che ne dici? Ma guarda, sono d'accordissimo. Si chiama Al Pacino, ma non ho capito perché si chiama Al Pacino, perché non c'entra un cazzo il testo. Vabbè, comunque. Non giudicare il libro dalla copertina. Hai ragione. Stolto io. Dai, ci ascoltiamo questa e poi facciamo due chiacchiere con Mattia. A tra poco. Sempre stato zitto, modo casual patch. Ha visto fottuto rack. Scrivo barretture come giocavo al campaccio. Sgremo diretto dall'atto. La fiducia scivolata dentro quel tombino. Viaggio da che ero bambino. Metto quella mela dentro il tuo giardino. Fumo tutta l'erba dal mio vicino. Sempre giù in caserma da ragazzino. In zona faccio sempre modo per fare casino. Chi si serve del potere uccide il contadino. Gli ha servito da mangiare solo pane fino. Dammi uno scherzo, non film, vai a piccino. Morirò in Sicilia come un clandestino. Sempre di vigile come un malandrino. Scappo sempre dagli sbirri come San Firmino. Isla. Fisca al vento, in furia la bufera. Pur bisogna andare a conquistare la rossa. once in my lifetime. I'm running out of lifelines. I'm having trouble getting sleep up in the nighttime. Searching through my conscience, feeling scared of what I might find. I ain't in my right mind, we ain't in the right time. Got me in a tight bind, death is in a pipeline. Pedaling, pedaling up the hill, it's like it's bite time. Felony, felony, felony, you trying to take mine. Batman, pull up, Batman rob, and he say he got bullets. Four leaf clipper to my haters like, good luck. You shoulda, coulda, woulda, you woulda, coulda, shoulda. You niggas ain't fucking with me. You pay when you fucking with she. Meanwhile, I'm fucking for free, and she is the world. And then I go fuck with your girl. Al vento y furia la bufera, buscar pero tu pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol della vera. ZM, puntata sulle comunità resistenti. Abbiamo sentito all'inizio la testimonianza di Massimiliano che agisce nel territorio di Milano Sud, poi siamo passati a una chiamata alla compagna Marianna di Azione Antifascista a Roma Est, successivamente una testimonianza da Napoli, avendo chiamato il compagno Antonio che fa parte di una collettività che agisce nel territorio di Scampia. Adesso ritorniamo, diciamo, in casa con il nostro amico, il nostro compagno Mattia, che invece si organizza a Milano, sempre a Milano Sud, ma in un'altra parte un po' diversa rispetto a quella in cui ci organizziamo, cui si organizza Massimiliano e tutto il nostro collettivo. E quindi adesso lui è stato qua tutta la puntata, quindi bene o male sa, non c'è bisogno che gli faccio la mega introduzione che giustamente prima si faceva agli altri ospiti, però ecco, passo direttamente, diciamo, alla domanda centrale, ed è sempre la stessa, e cioè: come secondo te, soprattutto anche nell'epoca pandemica, ma in generale, la costruzione di comunità resistenti è una pratica, sia nelle modalità che nei fini, antifascista e prettamente antifascista? Allora, ciao a tutti. Innanzitutto, per non essere proprio maleducato, vi ringrazio. Vi ringrazio di avermi invitato a questa serie di iniziative importanti per l'anniversario di Dax. Qui invitiamo tutti a partecipare ai momenti che ci saranno. E penso che la risposta bisogna partire sicuramente da quello che c'è scritto anche proprio sulle bandiere che ricordano Dax, cioè che antifascismo è anticapitalismo, no? Quindi il fascismo è proprio un prodotto della società in cui viviamo, un prodotto, io penso, proprio della crisi del capitalismo, crisi in cui noi appunto siamo immersi, che va avanti ormai da decenni. Cosa succede in questa crisi del capitalismo? Che continuano a peggiorare le condizioni in cui le persone vivono, e questo costringe le persone a mettersi in moto a cercare una soluzione. E diciamo che alcuni membri della classe dominante, organizzazioni che si rifanno al fascismo più o meno, insomma, tentano di mettersi alla testa di questo movimento qua con parole d'ordine che fomentano la fine della guerra tra poveri. Quindi ti fanno a dire che la causa del tuo problema è lo straniero, quello più povero, l'immigrato, quello diverso, insomma, sulla base di problemi però realmente esistenti. Quindi diciamo, il lavoro sul territorio, costruire comunità resistenti, come si vuol chiamare, è fondamentale, perché è appunto in questa maniera che noi si porta un'alternativa, una soluzione alternativa a questi problemi che realmente esistono e che appunto vengono cavalcati in questo senso, diciamo, alimentando una mobilitazione reazionaria. E invece compito nostro è incanalare questa mobilitazione in senso appunto rivoluzionario. Quindi, venendo al concreto, cosa si fa? Noi, vabbè, sono più o meno, mi pare, 5 anni che siamo in quartiere, e diciamo in quest'ultimo anno appunto abbiamo, insieme a ZAM, con cui da un sacco di tempo siamo in coordinamento, stiamo facendo l'attività delle brigate, e diciamo proprio quello che abbiamo visto è appunto che la questione fondamentale è questa cosa qui: prendere di petto i problemi che ci sono. Ad esempio, nel nostro quartiere c'è il problema della disoccupazione, quindi per un po' di anni noi abbiamo fatto una lista di disoccupati, c'è il problema del degrado, e quindi con questi disoccupati abbiamo fatto lavori che servono in quartiere, c'è il problema con quartiere dormitorio, abbiamo fatto momenti di socialità, ora c'è il problema della povertà e della disoccupazione che dilagano a fronte alla crisi, stiamo facendo questa cosa delle brigate di solidarietà per portare soluzioni che però appunto la questione che noi abbiamo visto principale è che non siano calate all'alto ma che emergano da un confronto, da un ragionamento, da un percorso comune insieme alle persone con cui vogliamo portare avanti. Perché in questo percorso, in questa pratica che si fa assieme, che come dire, si cresce assieme anche a livello di coscienza e vengono meno anche tutti quei pregiudizi, quelle narrazioni che la classe dominante porta e che alimentano la guerra tra poveri. Quindi fondamentalmente quello che stiamo facendo in questo periodo, appunto con le brigate, siamo partiti anche noi chiaramente a distribuire i pacchi, abbiamo fatto tutto un percorso per cercare di rendere i beneficiari dei pacchi protagonisti di questa attività, quindi di mobilitarli, attivarli a far fronte al loro proprio problema. Ora chiaramente non è che abbiamo ottenuto da un giorno all'altro una partecipazione di massa, però un certo numero di questi beneficiari assieme a noi si sono attivati, quindi ora diciamo stiamo con loro portando avanti questa attività di reperimento cibo, distribuzione pacchi, e nel percorso stesso che stiamo facendo con loro emerge però la necessità di porsi questioni più generali, emerge il fatto che la distribuzione di pacchi alla fine è chiaramente una pezza a un problema più generale, quindi ha necessità di fare mobilitazioni anche più ampie, politiche, per chiedere soluzioni, imporre e realizzare soluzioni più generali a questa cosa qui. Quindi insomma penso che la... Sintetizzando, la questione è questa cosa qui, che non c'è antifascismo senza la costruzione di un'alternativa al fascismo ma al capitalismo in generale, perché il fascismo è proprio un prodotto di questa società e della sua crisi. E quindi quello che vogliamo far noi è costruire questa alternativa sui territori, però voglio aggiungere quest'ultima cosa e poi chiudo perché non è che sono uno che parla all'infinito. La questione importante è che dai territori questa cosa cresca fino a prendere in mano la gestione dell'intero paese, perché questa questione di cui stiamo parlando è una questione diciamo politica che vive sui territori ma vive anche di questioni generali che riguardano l'intero paese, che se noi non andiamo ad affrontare problemi generali come sono la disoccupazione, la precarietà eccetera, sì sui territori ma anche a livello dell'intero paese, chiaramente ci sarà qualche elemento, qualche gruppo la classe dominante, fomentata dalla classe dominante, che gli andrà a cavalcare in senso fascista, in senso reazionario. Quindi per far fronte a questa cosa qui dobbiamo sviluppare una mobilitazione rivoluzionaria fino in fondo, fino a cambiare il paese. Perfetto, direi chiarissimo, cristallino, non aggiungo altro. Adesso ci ascoltiamo una canzone che è dedicata a un compagno scomparso qualche tempo fa, è molto significativa e ci rivediamo tra poco con le conclusioni della puntata. Mo non ci stai più caro, tutta una botta. Guaglion Avat, Luong, Ruos, Ruos, via dei transiti Milano, numero 28, e casa occupata, Ro 1978, a tre puzza Milano, tarantelle lot, back, due mani tante, nu coro ruossa, a storia rotrone che vena lontana, nu piezzi e la storia e l'autonomia a Milano. A pugno chiuso frate, a parte chi tu conoscevi, a parte chi t'ha conosciuto, che step te frate che a motte ne si chiude, nu grande salute, mano sinistra, a pugno chiuso. E giriamo tutte fiere, come aiuta a farni. O fatte che non si capisce, e non si può capire. E giriamo tutte fiere, come aiuta a farni. Fate che non si capisce e non si può capire. Ehi Fabione, io sto a casa, passa. Mm-hmm. storia è che ero al mare, avevo 17 anni, arriva una ragazza e mi fa: corri, corri che stanno picchiando i tuoi fratelli. Alle spalle mi è arrivato un carabiniere che non si è presentato come carabiniere. No, mi ha messo il ferro alle spalle e mi ha detto fermo. Mi sono abbassato e gli ho dato una gomitata nei coglioni a sto carabiniere, l'ho sdraiato. L'ho preso di capo per i capelli e gli ho sbattuto sta cazzo di testa sotto marciapiede, che in dialetto salentino si chiama bacchettone. Poi è arrivato a Milano e me l'ha portato a bacchettone, comunque mi è costato 6 mesi di condanna e l'articolo 1. Chiaramente pericolo pubblico, pericoloso per sé e per gli altri. E giriamo tutte fiere come giuta a farni. O fatte che non si capisce e non si può capire. Comunque sappiate, no? Che io non mi sono rammollito, spezzo l'ossa a tutti quanti, sappiatelo! E eccoci qua, un salutone a Zasta e un pensiero a Bach. Bene, dunque con questa canzone, dopo questa canzone ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, una puntata dedicata alle comunità resistenti. Abbiamo cercato di attraversare attraverso le testimonianze di diretti interessati diversi territori, partendo da Milano Sud, che diciamo ha aperto e chiuso la puntata, prima con l'intervento di Massimiliano, poi con l'intervento di Mattia, che ci ha raccontato un po' come nella specificità del territorio ci si è organizzati per organizzare il bisogno e rispondere laddove le istituzioni una risposta non la danno, e quindi sostituire, quindi un po' riempire quel vuoto che altrimenti avrebbe significato molte difficoltà e molti problemi per svariate persone. Abbiamo un po' poi sceso lo stivale andando a Roma, in particolare nel quadrante est di Roma, nel quartiere di Centocelle, un quartiere storicamente popolare nel quale ci raccontava Marianna. Il gruppo di appoggio mutuo si è organizzato dal basso in modo autonomo, autogestito, per rispondere a tutte quelle istanze e a quei problemi che altrimenti avrebbero avuto una risposta e dei condottieri nelle organizzazioni neofasciste. E quindi a Roma, ci diceva Marianna, hanno sottratto territorio, hanno tolto terreno fertile alle risposte fasciste che, riprendendo la compagna a cui abbiamo telefonato prima, sono solo delle terribili illusioni e non sono risposte concrete a bisogni reali. Sono riusciti appunto a organizzare il bisogno e a rispondere a determinate situazioni. E poi, scendendo sempre di più, siamo arrivati al territorio napoletano, in particolare al difficile quartiere, al difficile rione di Scampia, dove il compagno Orso ci raccontava che adesso col coronavirus, ma in realtà, come più volte ribadito giustamente da lui, da ormai l'83, da ormai 40 anni, con il posto occupato che hanno nel quartiere Scampia, rispondono a quelli che sono i bisogni e le istanze di un quartiere abbandonato dallo Stato e invece sciacallato dalla criminalità organizzata. Quindi ecco, diciamo una puntata molto molto interessante, molto complessa, che ha avuto diverse testimonianze, ha avuto la possibilità di illustrare diversi modi per raggiungere tutti quanti un fine, ma che comunque ha messo in luce il fatto che in qualsiasi modo si faccia, in qualsivoglia territorio e contro qualsiasi tipo di ostacolo, dalla polizia ai fascisti alla criminalità, organizzare il bisogno è un'istanza vitale che non può essere evitata, e soprattutto hanno dimostrato che si può fare dal basso, senza l'aiuto di nessuno, anche andando a colmare i vuoti laddove le istituzioni li lasciano e abbandonano i territori nel proprio alla mercé di se stessi, e nel frattempo, mettendo in campo queste pratiche, si può conservare un'identità che non sia identitaria, ma che sia comunque fortemente improntata all'antifascismo, all'antirazzismo, all'antisessismo e all'anticapitalismo, in vista di relazioni nuove per una nuova società con un nuovo tipo di antifascismo. E anche se sarebbe meraviglioso ascoltare la voce del compagno Norberto per ore e ore e ore, direi che per oggi è tutto. La prossima puntata sarà martedì prossimo, sarà sulla questione antirazzista. Avremo un po' di ospiti che non vi spoileriamo, e ringraziamo tutti e tutte per averci ascoltato. Ringraziamo Marianna da Roma Est, ringraziamo Antonio da Napoli, ringraziamo Max e Tia che sono qui con noi, e mandiamo l'ultima canzone e poi chiudiamo tutto. Ovviamente, visto che questa puntata si inserisce nel ricordo di Dax, invitiamo tutti a seguire un po' le vicende che anche quest'anno ci porteranno a ricordare Dax, per quanto ci sarà possibile nell'epoca in cui stiamo vivendo, ma comunque il ricordo di Dax avverrà, perché per noi è fondamentale, quindi stay connessi. Dagli, e vabbè, volevo farti scegliere una canzone, ma alla fine ho scelto questa perché era quella lì. Ci ascoltiamo Odio gli Indifferenti di Fast Cut con Kento e Principe. Bellissimo, grazie bellissimo. A tutti e tutte, buona serata. Buona serata a tutti e tutte. Yeah. Boh, mi dice di farla. Torino Roma in connessione. Un missile, Ciccio, siamo Ciccio Kento al microfono. DJ Fast Cut. Questo va ai veri artisti, quelli là fuori. Yeah. Yo fra. Ti spiego com'è che va. Sono un rapper anni fa, non da vetrino, varietà, disti tempo.